Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuovo scontro tra Europa e Italia. Il presidente dell'Eurogruppo frena sull'allentamento delle politiche di bilancio. Il ministro Calenda replica, prende cantonate. Lo fa abbastanza spesso. Avrebbe inscenato il suo rapimento per avere $10,000 in contanti. Secondo tre giornali americani, la Poilkan sarebbe stato arrestato e rilasciato a New York. Rimbalzano le borse, con Milano migliore in Europa. Nell'asta di BTP i tassi vanno ai massimi da un anno e mezzo, rendimenti dei decennali vicini al 2%. Arrestati un medico e un'infermiera per una serie di morti sospette a Saronno, nel Varesotto. I due sarebbero amanti, le vittime almeno 4. Arriva il freddo e dalle zone terremotate di Umbria e Marche riparte l'appello: dateci container. Notte di vento a Norcia in Valnerina. Consiglio regionale Veneto al voto sul bilinguismo. L'obiettivo è diventare minoranza, avere corsi di dialetto nelle scuole, quote protette nei concorsi pubblici. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque il nuovo scontro tra Europa e Italia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, nuovo capitolo nel braccio di ferro tra Roma e Bruxelles, nell'ormai lungo confronto tra austerità e flessibilità. Tra i sostenitori di un rigoroso rispetto degli accordi europei vi è il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, che di fatto boccia le aperture della Commissione sul maggiore spazio di manovra alle politiche di bilancio, perché queste sostengano la crescita. Non siamo ancora abbastanza stabili per lasciarci andare a questo tipo di traiettoria fiscale, dice Dijsselbloem. In nome della credibilità congiunta dobbiamo essere coerenti tra quello che facciamo e quello che diciamo, aggiunge il presidente dell'Eurogruppo. È importante che gli Stati membri rispettino quel che è stato concordato sul raggiungimento dell'equilibrio strutturale. Da Palazzo Chigi la replica a Dijsselbloem è affidata alle parole del ministro dello sviluppo economico Calenda, che spiega: Dijsselbloem sta prendendo una gigantesca cantonata, cosa che fa abbastanza regolarmente. Non comprende che la questione non sono i vincoli di bilancio, ma il fatto che l'Europa è in mezzo a sfide difficilissime, dice ancora Calenda, la prima delle quali è una chiarissima disaffezione dei cittadini e ha necessità di fare un grande piano di investimenti per trasformarla, e serve un New Deal a livello europeo. È tutto, linea allo studio. Sullo sfondo di tutto questo, naturalmente, la campagna referendaria. Mancano 3 giorni al silenzio elettorale che scatterà venerdì sera. Facciamo comunque un punto. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, l'approvazione di queste riforme stabilizzerà il nostro paese e accelererà ulteriormente il cammino sulle altre. Lo dice il ministro degli affari esteri Paolo Gentiloni intervenendo ad un convegno a Berlino, e secondo indiscrezioni anche con la vittoria del sì il premier Matteo Renzi è pronto a dimettersi. Sul tavolo ci sarebbe l'idea di rafforzare l'esecutivo e di cambiare l'Italicum con una legge che preveda metà dei seggi assegnati con collegi uninominali, metà con il proporzionale, premio di maggioranza attorno al 15% per la lista o la coalizione che prende più voti. Un'intesa che potrebbe piacere anche a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Oggi ribadisce di voler fare le riforme in caso di vittoria del no e prosegue la sua battaglia scrivendo ai militanti azzurri: il 4 dicembre avrai in mano un'arma con la quale potrai fermare una riforma del tutto inaccettabile e nemica della democrazia, che renderebbe impossibile governare per il centrodestra o per chiunque tranne il PD. Dai 5 Stelle, infine, Luigi Di Maio ribadisce che in caso di vittoria del no, Renzi dovrebbe dimettersi, non ci sarà l'apocalisse, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella traccerà la strada, il Movimento chiede le elezioni per il 2017. A te, Simone. Grazie dunque, Elisabetta Fiorito. L'altro capitolo che è in parte correlato al referendum sono le tensioni sui mercati, che almeno per oggi sembrano allentarsi. Sentiamo. Un piccolo rimbalzo non basta per risollevare le sorti di Piazza Affari, che da inizio anno è in calo del 24% e solo nel mese di novembre perde oltre il 5%, la performance peggiore tra le borse europee. Ormai è noto, a penalizzare il nostro listino sono le banche, che oggi salgono dopo il crollo della vigilia. Certo, il referendum c'entra per una questione di stabilità politica, ma il problema, come ha ricordato il Financial Times, sono i soldi che il sistema bancario italiano ha bisogno, tra aumenti di di capitale e crediti deteriorati e che un'incertezza di governo potrebbe mettere in forse allontanando i fondi esteri. Una grossa fetta di investitori istituzionali, soprattutto americani, è convinta che vincerà il no e sta scommettendo su questo, spiega l'amministratore delegato di Borsa Italiana, Ierusalmi. E nell'asta del tesoro i tassi dei BTP segnano i massimi da giugno 2015, primo appuntamento dopo il referendum, l'aumento di capitale da 5 miliardi del Monte dei Paschi di Siena. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il fronte delle indagini a Palermo sui 5 Stelle. Dopo la mancata autosospensione, la sospensione d'ufficio per i tre deputati Claudio Mannino, Giulia Di Vita e Riccardo Nuti più l'attivista Samantha Busalacchi, ci pensa il Collegio dei Probiviri, sospensione immediata dal Movimento. Una decisione prevedibile e ufficializzata ieri sera sul blog di Grillo, dopo che era scattata una rivolta della base sui social con esplicita richiesta di sospensioni, ma soprattutto dopo una giornata segnata da silenzi e reticenze degli indagati davanti ai PM di Palermo. Durante gli interrogatori, infatti, i deputati Mannino e Nuti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rifiutandosi anche di rilasciare il saggio grafico che avrebbe consentito un confronto con le centinaia di presunte firme false al centro dell'indagine, quelle apposte sui moduli durante la notte del 3 aprile di 4 anni fa nelle stanze del Meetup di Palermo per sanare un errore formale. E intanto l'inchiesta si allarga con altri indagati che portano il conto totale a 13, mentre nuovo input alle indagini arriva dai pentiti come il deputato regionale Giorgio Ciaccio, il quale ha confermato il verbale della collega Claudia La Rocca, la prima testimone che ha rotto il muro di silenzio. Sia Ciaccio che La Rocca si sono autosospesi, gli unici a farlo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Sarebbe stato arrestato a New York Lapo Elkan. Dovrà rispondere di falsa denuncia di reato Lapo Elkan, dopo essere stato fermato e poi rilasciato dalla polizia di New York. L'imprenditore italiano, secondo alcuni giornali americani, avrebbe inscenato un falso rapimento. Il 39enne avrebbe trascorso 2 giorni a base di alcol e droga in compagnia di una escort in un piccolo appartamento della Grande Mela. Una volta finiti i soldi, avrebbe chiamato i familiari raccontando di essere stato rapito da una donna che in cambio, come riscatto, chiedeva $10,000. I parenti avrebbero contattato la polizia di New York, che poi ha arrestato l'imprenditore nel luogo stabilito per lo scambio. L'udienza per la formalizzazione dell'accusa è stata fissata per il 25 gennaio. Non è la prima volta che Lapo Elkan si trova nei guai. Nel 2005 fu salvato da un'overdose di droga in un appartamento di Torino. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriva il freddo e lo avrete sentito, problemi per le popolazioni terremotate. La terra continua a tremare e arriva anche il primo vero freddo nelle zone terremotate del centro Italia. Stanotte una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.35 con epicentro fra Accumoli e Arquata del Tronto. Gli sfollati che hanno scelto di restare nei loro paesi hanno passato una notte al gelo. Se non per qualche fiocco sulle cime dell'Appennino, a Norcia e in Valnerina non ha nevicato, ma le temperature sono scese sotto lo zero anche a causa dei forti venti. Un anticipo di inverno che preoccupa gli amministratori locali, i quali chiedono che vengano inviati quanto prima i container promessi dal governo entro Natale. Ad Amatrice stamattina sono arrivate le prime 2 casette che dovranno ospitare gli sfollati del sisma di agosto. Fanno parte di un progetto che prevede la costruzione di 25 soluzioni abitative di emergenza dai 40 agli 80 metri quadrati che verranno sistemate in un'area alle porte del paese dove i militari del Genio hanno quasi del tutto completato gli interventi di urbanizzazione necessari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nicola Lemanno, sindaco di Norcia, buongiorno. Come vanno le cose e come è andata la notte? Buongiorno a tutti. La notte è stata una notte fredda, una notte difficile. Le temperature sono scese vertiginosamente e ovviamente le nostre persone, che con moltissima dignità stanno affrontando ancora una volta le difficoltà del momento nelle tende, soffrono, e quindi stiamo cercando di fare del nostro meglio, di fare il massimo per far sì che prima possibile possano arrivare i container. Le notizie che ci giungono dalla Protezione Civile ci dicono che da giovedì ci dovrebbe essere un nuovo innalzamento delle temperature. Questo ci lascia ovviamente ben sperare, dobbiamo però fare presto con i container, dobbiamo far sì che queste persone possano lasciare le tende prima possibile, perché la situazione è veramente difficilmente sostenibile. La ringrazio, grazie Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, anche per la sua testimonianza, ed è un appello che naturalmente rilanciamo. Siamo alla cronaca, abbiamo parlato del freddo, del maltempo, è stato ritrovato dopo che era disperso da venerdì pomeriggio alle Toiani, provincia di Messina, dopo il nubifragio, il corpo di Roberto Sacca, 74 anni, è stato ritrovato al largo di Isola Bella a Taormina dagli uomini della guardia costiera. L'uomo lascia la moglie e 5 figlie. Sempre per la cronaca, c'è la vicenda di due persone che, a quanto si apprende, sarebbero un medico e un'infermiera dell'ospedale di Saronno, che sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio. Si tratterebbe appunto di 4 casi di morti sospette in corsia tra il 2012 e il 2013. I due sarebbero amanti. Su questa vicenda torneremo più avanti nel corso di Effetto Giorno, nel corso del nostro giro per l'Italia. Intanto andiamo alla vicenda di 6 ufficiali dell'esercito indagati per truffa sulla blindatura di mezzi in Afghanistan. L'inchiesta è partita dal suicidio di un militare. Pagano 2.000 quello che costa 200. Lo diceva in riferimento ai contratti di noleggio dei blindati dell'esercito in Afghanistan Marco Callegaro, capitano dell'esercito, morto ufficialmente suicida a Kabul nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2010. Secondo Callegaro, i blindati che servivano a proteggere le autorità italiane in visita, ambasciatori e ministri, erano più leggeri e più costosi di quello che era stato pattuito. Per questo ora sono indagati per truffa aggravata dalla Procura Militare di Roma 6 ufficiali. Il fornitore locale, favorito con costi gonfiati, secondo l'accusa, faceva capo a un individuo vicino ad ambienti terroristici. Ma un'ombra più pesante si allunga su questa vicenda e riguarda proprio la morte del capitano. I familiari di Callegaro, infatti, hanno sempre sostenuto che non si sia trattato di un suicidio. Secondo i familiari, la morte è in qualche modo da ricondurre a quello che aveva scoperto sulla truffa in corso. A confortare questa tesi vi sarebbe anche una lettera che il capitano, secondo quanto riferito dal padre, aveva inviato alla Procura di Roma. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di cronaca, qualcuno ci dice: per favore parlate della vicenda di Marta Vincenzi, la sindaca di Genova, che ieri è stata condannata nell'inchiesta sull'alluvione del 2011, non su richiesta vostra, ma perché l'avevamo già deciso. Ne parleremo più avanti su un aspetto un po' più specifico, che è quello che riguarda la responsabilità degli amministratori locali e l'effetto che può avere una sentenza di questo tipo proprio sugli amministratori locali. Ci arriveremo più avanti. Intanto ci occupiamo della caduta di un aereo a bordo del quale c'era una squadra brasiliana. Un aereo con 81 persone a bordo, 72 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, tra cui calciatori, dirigenti e staff tecnico della Chapecoense, una squadra di calcio di Serie A brasiliana, si è schiantato ieri sera in una zona montagnosa alle porte della città colombiana di Medellin. Solo 5 i sopravvissuti. L'incidente è stato registrato intorno alle 22:34 ora locale. Le cattive condizioni climatiche, un guasto elettrico e poi il mistero sul carburante sono queste le 3 possibili cause dell'incidente al momento. Secondo il responsabile dell'Agenzia per l'Aviazione Civile colombiana, Alfredo Bocanegra, non è escluso infatti che l'aereo abbia finito il carburante in volo. A supportare questa ipotesi ci sarebbe la testimonianza di un'assistente di volo sopravvissuta. La squadra di calcio brasiliana Chapecoense avrebbe dovuto inizialmente viaggiare su un volo diretto per Medellin, che non è stato autorizzato dall'aviazione civile brasiliana. Costretta così a cambiare programma, la squadra, 42 persone in tutto, si è imbarcata all'aeroporto internazionale di San Paolo e ha fatto prima scalo in Bolivia, Santa Cruz della Sierra, poi è salita su un aereo di linea con altri 30 passeggeri, tra cui giornalisti e tifosi, oltre a 9 membri dell'equipaggio. La Chapecoense avrebbe dovuto giocare domani la finale della Coppa Sudamericana contro l'Atlético Nacional di Medellin, una partita che li avrebbe resi famosi e che non giocheranno mai. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci si prepara alle esequie di Fidel Castro, a questo è dedicata l'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Da due giorni per le strade dell'Havana non si sentono più le note della musica cubana e rumba che scorre normalmente a fiumi. Alla Bodeghita del Medio e alla Floridita non si può più vendere. La città è silenziosa e non si sente lo straordinario baccano nei bar e nei mercati che restano chiusi. Gli spettacoli sono fermi e sugli edifici sventolano bandiere a mezz'asta, mentre un intero popolo rende omaggio a Fidel Castro in Plaza della Rivoluzione. Un mare di gente, una moltitudine difficile da contabilizzare. Stanno tutti lì da ore, sotto il sole martellante, stipati in contemplazione davanti alle ceneri di Fidel. Nel memoriale José Martí c'è una grande foto in bianco e nero di Fidel, circondata da militari in alta uniforme e picchetto d'onore. Sfilano in silenzio, firmano i registi della rivoluzione e portano bandiere stendardi. Il futuro di Cuba senza Fidel è già ora. Nella partecipazione a questo enorme funerale laico, composto da persone che non si scandalizzano più di tanto se la vecchia amministrazione americana di Obama non sarà presente alle esequie, e non si stupisce se il nuovo presidente Trump manda a dire che non porterà avanti l'accordo con Cuba sulle sanzioni economiche. I cubani lo hanno già messo nel conto. Con Trump e senza Fidel potrebbero tornare indietro di molti anni. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E lo iniziamo dal Veneto, perché oggi approda in consiglio regionale quella che da qualcuno è stata definita la Venexit, ossia l'ipotesi appunto che la richiesta che sia dato il via libera al bilinguismo, il riconoscimento del popolo veneto come minoranza nazionale. Parleremo con uno dei proponenti. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del nuovo scontro tra Europa e Italia, dei nuovi guai per l'Apo Elkan, abbiamo parlato di borse e di mercati e abbiamo parlato delle zone terremotate colpite dal freddo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo, come si diceva, dal Veneto, dove oggi va in votazione questa legge che prevede il riconoscimento del popolo veneto come minoranza nazionale. Va al voto appunto in consiglio regionale Veneto e, vista la maggioranza, c'è una discreta probabilità che tutto questo venga approvato. Tra i proponenti di questa proposta di legge c'è Guido Lio, che è sindaco di Segusino, siamo in provincia di Treviso. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Allora, non me la faccia in Veneto, perché sennò il resto d'Italia non capisce questa intervista, però ci spieghi un po' che cosa prevede questa cosa. Praticamente, finché è possibile, si sfrutta l'articolo 117,4 della Costituzione italiana attualmente in vigore, che dà la possibilità esclusiva come materia alla regione di riconoscere la minoranza nazionale in questo caso. Una minoranza nazionale, quindi con che caratteristiche? Cioè bilinguismo nelle scuole, tutte sì, queste cose qua? Cascata c'è anche, ma non è perché tante volte c'è l'equivoco, non è che si parta dal punto di vista o dall'angolatura della lingua in sé per sé, ma proprio il riconoscimento del popolo come del popolo veneto, della nazione, cioè, all'interno. Non so come dire, una differenza etnica del popolo veneto rispetto al resto del popolo italiano? Una particolarità, come ci sono altri popoli, perché non è intesa dire che il Veneto è chissà cosa, è una nazione come ce ne sono altre. L'Italia nasce su un contesto di stati preunitari, come chiunque di noi ha studiato a scuola, e si tende a ribadire questa importanza, questa tradizione, quindi che non è solo folcloristica ma diventa anche istituzionale. E che cosa genererebbe a cascata, oltre al bilinguismo nelle scuole, che è la cosa più evidente, insomma? Ma tutta una serie di garanzie, che non ci siano discriminazioni, che ci sia la possibilità comunque scelta da ciascuno di noi di prevedere anche nei propri comuni, senza nessun obbligo, però c'è la possibilità di prevedere il bilinguismo, come diceva lei, e altre iniziative che ovviamente... Sì. Cosa vuol dire evitare discriminazioni, mi scusi Lio? No, voglio dire, senza discriminazione, nel senso che, voglio dire, ogni comune, se vuole introdurre il bilinguismo, lo può fare, Tra l'altro... Ma discriminazioni, per esempio, nell'ottenimento dei posti pubblici? Cioè, ci deve essere una quota veneta? Ma secondo me, come già avviene adesso, se deve lavorare in Alto Adige deve conoscere il tedesco. Io sono lavoro nella pubblica amministrazione come polizia locale, sarei subito escluso in una possibile mobilità nella provincia autonoma di Bolzano perché non conosco il tedesco e giustamente sarei escluso. Anche se a Bolzano ci sono i ladini, ci sono altri gruppi minori, sì. Diciamo, però giustamente da tempo a me nessuno si è mai fatto uno scrupolo, quindi, un problema. Quindi la discriminante non è l'origine, nel senso, se io volessi venire a lavorare in un posto pubblico in Veneto, l'importante è che io impari il veneto. Certamente questa è una caratteristica che è importante, è una lingua che regge anche a fronte della forte immigrazione che abbiamo avuto in passato in altri stati all'estero dove permane la lingua, quindi è una lingua molto forte. Qualche ascoltatore ci chiede, ma non aumentano i costi in questo modo? Perché il bilinguismo, probabilmente degli insegnanti di veneto e tutte queste cose qua. Ma se guardiamo l'istruzione adesso, perché ci apprestiamo a fare la riforma della Costituzione, lo Stato vuole assumersi l'onere e la responsabilità. Non mi parli di referendum che andiamo in par condicio e diventa un inferno questa trasmissione, per carità. Non voglio farvi problemi. Grazie, no, perché sennò già è faticoso così. Voglio dire, la riserva esiste anche in Italia, nelle regioni a statuto speciale esiste, perché nei concorsi pubblici li ho visti anche nella sanità e quant'altro. Gli ho fatto l'esempio prima a Bolzano, se non conosce il tedesco, senta, non lo fa, ma può benissimo un siciliano da su. Senta Lio, qua c'è un ascoltatore che provoca, non so se sappia, lei è leghista, insomma, lei è della Lega. Un ascoltatore dice, ma se un tunisino impara il veneto può essere considerato un veneto doc oppure no? Come, scusi, non ho capito. Un ascoltatore provoca via SMS e dice, ma se un tunisino impara il veneto può andare oppure no? Ma sì, ma abbiamo tanti stranieri che parlano tranquillamente il veneto già qua, che sono da tanti anni che lavorano e sono anche inseriti. Non è quello il problema. Appunto è che si tratta poi di introdurre degli elementi a livello anche amministrativo che salvaguardino e che tutelino questa realtà. Questa realtà. Qua, la ringrazio, grazie Guido Lio, sindaco di Segusino. Vedremo come andrà il voto di oggi in consiglio regionale. Intanto saluto Orlando Mastril, il nostro prossimo passaggio nel nostro giro per l'Italia ci porta a Saronno, siamo in provincia di Varese. Orlando Mastrillo è un collega giornalista di Varese News. Buongiorno, benvenuto Orlando. Grazie. Per la vicenda che vi raccontavamo anche nei titoli, la vicenda di questa operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di due persone, sono accusate, Orlando mi sembra di aver capito, di quattro morti in corsia. Quattro morti in corsia, in ospedale, all'ospedale di Saronno e per la precisione al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno e per quanto riguarda il medico, mentre invece l'infermiera, che è poi anche l'amante di questo medico, è accusata insieme a lui della morte di lei marito, che è avvenuta appunto nel giugno del 2014. E quindi si tratta in tutto di cinque omicidi, quelli accertati fino ad ora da parte della Procura di Bussarsizio e del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Saronno, che hanno condotto le indagini. La vicenda però potrebbe avere dei risvolti, diciamo, anche nelle prossime settimane ancora peggiori, nel senso che le morti sospette sarebbero anche di più, però al momento nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ci sono appunto questi cinque omicidi. Si tratta di quattro pazienti del pronto soccorso, si tratta di persone anziane comunque in stato di salute piuttosto degradato, alle quali il medico del pronto soccorso, questo medico, avrebbe somministrato dosi letali di farmaci fino a farli morire. In complicità con questa donna, evidentemente, con l'infermiera. Con l'infermiera la complicità era invece relativa alla morte del marito di lei, appunto. Quindi solo lui sarebbe accusato delle morti in corsia? Solo lui è accusato delle morti in corsia, lei invece è accusata della morte del marito, che sarebbe avvenuta appunto sempre tramite somministrazioni di farmaci che lo hanno debilitato fino sostanzialmente a farlo morire nel giugno del 2014. Ti ringrazio, grazie Orlando Mastrillo, collega giornalista di Varese News. Varese News, che è un sito internet di informazioni sulla zona, e trovate dettagli e aggiornamenti su questa vicenda anche là. Adesso, a differenza di come facciamo di solito, come sapete questa parte è un po' più dedicata all'Italia, ci occupiamo anche di estero e andiamo in Ucraina. 3 anni dopo la rivolta di Maidan, la guerra nell'est è ancora lontana da una soluzione. Il costo per l'Italia delle sanzioni economiche a Mosca, secondo l'ambasciatore di Kiev in Italia, Yevhen Perelgin, non deve oscurare il costo che l'Ucraina paga ogni giorno per il conflitto con il potente vicino orientale. Gigi Donelli ha intervistato l'ambasciatore, sentiamo. Sulle sanzioni che il mondo democratico, la comunità internazionale ha deciso che sanzioni deve essere in vigore fino Crimea e Donbass ritornerà nell'Ucraina, è primo punto. Secondo, che sanzioni costano per Europa sì, ma non tanto come sta discutendo imprenditori e alcuni politici italiani. Per esempio posso dire che Italia ha perso quasi 1 miliardo di euro per suoi imprenditori per la causa della guerra in Ucraina. Che cosa è? L'anno 2012 Ucraina ha comprato in Italia merci quasi 2 miliardi di euro, ma dopo l'iniziato la guerra nell'est dell'Ucraina l'esportazione italiana in Ucraina ha caduto quasi la metà. Quando noi parliamo della perdita italiana verso commercio con Russia, posso dire che secondo nostra valutazione questa perdita non è per sanzioni, ma per la situazione economica interna in Russia. Un furto di quadri a Verona, un ritrovamento e un'attesa. Ci può dare notizie di queste tele che l'Italia attende di ritrovare? Sì, certo. In maggio Ucraina, insieme con esperti e procura di Verona, hanno iniziato il processo legale e il processo tecnico per restituire i quadri. Oggi posso dire che questo processo Ucraina già finito e noi siamo pronti di restituire i quadri in prossimi giorni e settimane. Oggi c'è un accordo tra due leader, il presidente Poroshenko e il presidente del governo italiano Renzi, che loro hanno accordato un mese fa partecipare in una cerimonia e fare insieme questa restituzione, perché questi quadri sono quadri di valore mondiale. Io sono sicuro che possiamo fare questo in prossimi, se non giorni, ma prossime settimane sì. Adesso ci fermiamo, andiamo tra un attimo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Parleremo della sentenza di ieri che ha riguardato la sindaca di Genova Marta, l'ex sindaca di Genova Marta Vincenzi, e poi di questa decisione di Trieste che ha preso più o meno la stessa decisione dell'Emilia Romagna, e cioè i bambini non vaccinati al nido non entrano. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli partendo da una notizia giunta pochi istanti fa e sulla quale stiamo cercando conferme. Un cittadino italiano originario di Brescia sarebbe prigioniero di un gruppo armato non identificato in Siria da 7 mesi. Questo è quello che riferisce un sito di informazione russo che ha diffuso anche un video dell'uomo. Ci sarebbero alcuni elementi non congruenti, ma naturalmente vi sapremo dare maggiori dettagli quando ne avremo e quando li troveremo. Nuovo scontro tra Europa e Italia, il presidente dell'Eurogruppo frena sull'allentamento delle politiche di bilancio, il ministro Calenda replica, prende cantonate, lo fa abbastanza spesso. Avrebbe inscenato il suo rapimento per avere $10,000 in contanti, secondo 3 giornali americani Lapo Elkan sarebbe stato arrestato e rilasciato a New York. Sono finite in manette un medico e un'infermiera per una serie di morti sospette a Saronno, nel Varesotto. I due sarebbero amanti, le vittime almeno 5, tra cui il marito della donna. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Allora, nelle ore nelle quali abbiamo raccontato della nuova alluvione che ha colpito il Piemonte e in parte anche la Liguria, è arrivata anche la sentenza che ha riguardato l'alluvione del 2011. Il 4 novembre a Genova morirono 6 persone. È arrivata la sentenza che ha comportato, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri GR, la condanna per l'allora sindaca Marta Vincenzi. Ha avuto 5 anni, è stata condannata a 5 anni. È stata condannata a 5 anni perché? Da una parte c'è il falso, è stata accusata di, e condannata anche per questo, per aver falsificato i rapporti che ci furono subito dopo questa alluvione. Dall'altra parte per aver sostanzialmente sottovalutato l'emergenza, ossia non aver fatto chiudere le scuole. Abbiamo in linea con noi Antonio De Caro, che è presidente dell'ANCI oltre ad essere sindaco di Bari. De Caro, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, mi sembra di capire che la vostra posizione come ANCI, o quantomeno la sua posizione come presidente dell'ANCI, è che questa sentenza può rappresentare un precedente pericoloso. Io non conosco i dettagli della vicenda giudiziaria, ovviamente, come tutti noi, come tutti i sindaci, abbiamo piena fiducia nella magistratura. È chiaro che sentiamo una forte responsabilità e chiediamo da tempo una mitigazione delle responsabilità. Non può il sindaco essere responsabile di tutto quello che accade all'interno del proprio territorio, di tutto quello che accade all'interno della propria comunità. Qualche giorno fa è stato per fortuna assolto il sindaco di Lecce, mio amico Paolo Perrone, che era stato condannato addirittura per omicidio colposo per un'automobile che era finita in un sottopasso allagato. Ci sono delle responsabilità che vanno ovviamente distribuite. Non può essere il capo dell'amministrazione responsabile di tutto. Sindaci che firmano trattamenti sanitari obbligatori, costringendo persone di cui non si ha conoscenza, solo sulla base di un referto di un medico, a stare rinchiuse all'interno di un ospedale. Firmiamo, ho provato a raccontare degli aneddoti, no? I primi giorni in cui mi sono insediato ho scoperto che firmo i registri delle droghe leggere, della morfina in particolare, che sono tenuti presso le strutture ospedaliere della mia città, e quindi vi dimando il registro, sono responsabile di quella cosa. Siamo responsabili delle ordinanze contingibili urgenti, siamo responsabili della demolizione di edifici anche pubblici o privati per metterli in sicurezza, e siamo responsabili della protezione civile. Ora, può un sindaco, sulla base di uno stato di allerta che arriva dalla protezione civile, decidere cosa chiudere e quando chiudere? Non dovrebbe essere un aspetto tecnico, non ci dovrebbero essere dei meccanismi in automatico. Stato di allerta 2 per la pioggia si chiudono le scuole, stato di allerta 2 per la neve si chiudono le scuole. Sì, anche perché, sindaco, il tema, mi sembra di capire, è questo, è che il rischio di una sentenza di questo genere è che voi procediate alla chiusura delle scuole, degli edifici pubblici, alla messa in stato di allerta della città anche solamente, che ne so, con un'allerta arancione, che è un grado un po' più basso di quella rossa, o magari ancora inferiore, perché insomma non è che sapete quanta pioggia può cadere in un singolo punto della città. Certo, arriva un allerta meteo generico sulla città, uno chiude tutte le scuole da oggi. Chiudere tutte le scuole, per chi non fa il sindaco, può sembrare una cosa normale. Per chi fa il sindaco sa che ci sono migliaia di famiglie che accompagnano i bambini a scuola e poi per fortuna hanno un lavoro e vanno a lavorare. Se quelle famiglie la mattina non possono accompagnare i bambini a scuola, che fanno? Non vanno a lavorare? E poi l'allerta meteo riguarda soltanto le scuole, non riguarda anche magari gli edifici dove queste persone lavorano? È complicato, non è semplice, bisognerebbe trovare un meccanismo automatico che metta nelle condizioni il sindaco di adottare un'ordinanza sulla base delle indicazioni tecniche che arrivano da parte della struttura tecnica, in questo caso specifico dovrebbe essere la protezione civile. Sì, è comprensibile, la ringrazio, grazie a De Caro per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi. E dunque, così De Caro, giusto per chiarire con gli ascoltatori, non ci riferiamo alla parte della sentenza della Vincenzi che riguarda il falso, ma ci riferiamo alle condanne che sono arrivate alla Vincenzi per disastro colposo e omicidio colposo, e quindi a quella parte, diciamo, penale della sentenza. Per chiudere, andiamo a Trieste, ci siamo stati già ieri in realtà, però per un'altra decisione del comune, ed è questa decisione di negare la agli asili nido per i bambini non vaccinati, una decisione analoga alla legge varata dalla Regione Emilia-Romagna. Ne abbiamo parlato con l'assessore all'infanzia Angela Brandi, sentiamola. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti. Abbiamo deciso di intervenire sulla base di grossi segnali che ci stavano arrivando, in primis dagli ambienti medici e scientifici. C'è stato un allarme da parte dell'Istituto Superiore della Sanità che ha evidenziato appunto che le vaccinazioni obbligatorie erano calate sotto la soglia del 95%. Quindi abbiamo realizzato che il dato relativo alla nostra regione è molto al di sotto di questa soglia, perché si attesta intorno al 90%. In particolare il comune di Trieste ha il dato peggiore di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, per cui attendevamo che anche la nostra regione decidesse di fare qualcosa, ma l'abbiamo vista attendista e quindi abbiamo deciso di intervenire autonomamente, perché fra i compiti del sindaco c'è anche quello di tutelare la salute pubblica. A che percentuale è, assessore, Trieste? Si aggira intorno all'89-90%, quindi c'è stato un grosso calo negli ultimi anni e ha ragione il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità a lanciare questo grido d'allarme. Quindi ci siamo messi in contatto con i pediatri triestini, che a loro volta hanno fatto un documento che ci invitava noi, ma invitava anche la Regione Friuli Venezia Giulia ad attivarci in questo senso per prevedere l'obbligo vaccinale per i bambini tra gli 0 e i 6 anni. Siccome noi gestiamo molti asili nido e molte scuole dell'infanzia, perché noi abbiamo scuole dell'infanzia comunali moltissime, abbiamo deciso di intervenire. Ci sono già dei genitori che protestano e annunciano ricorsi, lo sa questo, no? Ci sono dei genitori che protestano, ma la stragrande maggioranza invece non protesta e ritiene che questo sia un provvedimento utile. Dopo, quelli che protestano, secondo me, fanno intanto un atto di egoismo assoluto, perché a questo punto sperano che altri si vaccinino per tutelare anche i loro figli, e questo sappiamo che è l'effetto gregge, no? Il maggior numero di vaccinazioni per tutelare i bambini che hanno invece delle difficoltà, che sono immunodepressi o che non possono vaccinarsi. Ecco, questo è un atto di egoismo che non va coltivato. La ringrazio, grazie assessore Brandi per essere stata con noi, buona giornata. Altrettanto, grazie, arrivederci. Il traffico, Mario Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.